di Gianluca Costantini. Chi gira un po' per qua, nella stanza accanto e nel corridoio, andando verso il bagno e verso la mensa, troverà parte di quello che è incluso in questo libro esposto in delle cartelline colorate, quindi c'è modo anche di vedere già che cosa stiamo presentando. Dunque, Gianluca Costantini, brevemente, eccolo, benvenuto, arriva da Ravenna, disegnatore, attivista, suoi lavori sono esposti in numerose gallerie in Italia e all'estero. Da Londra a Parigi, da Praga a Buenos Aires, tiene conferenze, lezioni, workshop, incontri come questo, tante le collaborazioni in vari ambiti artistici, dalla musica alla poesia, appunto, dal teatro alla fotografia. Ha pubblicato storie a fumetti su riviste e inserti vari, da Internazionale alla Lettura, di Corriere, Le Monde Diplomatique, giusto per citarne un paio. E i suoi ultimi lavori riguardano personaggi come Pasolini, Pertini, Gramsci, Assange, Berlinguer, alcuni dei quali sono anche inclusi dentro a questo libro. Questo non so se ti ho reso un minimo di giustizia. E comunque intanto benvenuto. Una domanda subito sul pezzo, se posso, su come sono state scelte e raccolte queste poesie e autori e in generale di cosa tratta il libro, cosa ci troviamo. Non sto a dirlo io, magari lascio direttamente la parola a te. Quello fa meglio, sì. Buonasera a tutti, piacere di essere qui. Sono molto contento di essere qui dopo un solo mese che ho conosciuto questi individui a Urbino per caso e siamo già qui insieme, molto bello. Sì, questo libro è nato per caso da un disegno su un poeta. Questo era un libro di poeti di lotta. Cioè quei poeti che non scrivono solo poesie, ma poeti che sono scesi nelle piazze, che hanno fatto della protesta anche fisica il loro linguaggio, e poeti di sinistra, ma anche di destra, un po' tutti gli schieramenti. Questo libro è nato da un ritratto di Nazım Hikmet, che è un poeta turco, che viene definito un rivoluzionario romantico. Nazım Hikmet è un poeta che è stato esiliato dal suo paese per colpa delle poesie che scriveva e soprattutto per l'aiuto che dava alle popolazioni più povere della Turchia già nel 1930, 40, in quegli anni lì. Quindi questo era l'esempio che volevo seguire. E da questo disegno ho deciso di creare una catena di poeti, come una narrazione che li collegasse uno all'altro, di tutti i paesi, più paesi possibili, e sono partito dai poeti che conoscevo. Quindi Hikmet, ma anche quelli classici proprio tipo Rimbaud o Pasolini, e anche i poeti della Beat Generation, che sono molto famosi, Ginsberg, Burroughs e via dicendo. E poi dopo, da loro, dalle loro parole, mi sono concatenato a tutti gli altri poeti che non conoscevo. Nel senso, dalle loro biografie mi sono unito ai poeti che i poeti frequentavano perché appoggiavano le stesse cose che facevano loro. Quindi questo è stato un po' l'ingranaggio. E soprattutto mi sentivo un po' solo in quel periodo. Nel senso che come artista che lavora sui diritti umani, sull'attivismo, in prima persona, mi sentivo un po', come dire, sperduto perché avevo pochi compagni di viaggio. E raccontare questa storia che parte dal Settecento mi ha fatto capire che comunque è una linea che si segue, un percorso che continua per secoli di poeti e parole che io ho voluto usare col disegno però. Ma c'è, al di là di questo che ci hai spiegato essere un percorso di avvicinamento e anche di scoperta di alcuni poeti, tra l'altro per me l'occasione di leggere questo libro è stata quella in cui ho scoperto una serie di autori che non conoscevo, dico, al di là dell'impegno politico, che se ho capito in realtà è abbastanza vario, nel senso da Rimbaud a Hikmet, passando per la Beat, sono esempi piuttosto. Se c'è un filo rosso di qualche altro tipo, al di là di quello che è il tuo interesse, la tua ricerca, la tua passione, che tiene uniti tutti questi ritratti? C'è il percorso delle vite di queste persone che mi affascina. E, diciamo che Le cicatrici tra i miei denti, questo titolo un po' anomalo, che fortunatamente questo è un editore molto particolare che nessun editore mi avrebbe mai fatto usare, che è troppo enigmatico, è in verità un pezzo di una poesia che è all'interno di una poetessa vivente che è americano-siriana, Amir Kassir, che io ho preso proprio perché penso che a un certo momento di un'età, dell'età dell'adolescenza, quando la poesia ti colpisce, quelli che vengono colpiti dalla poesia, poi non tutti, quei pochi, quei poeti che leggi in quell'età ti rimangono attaccati. E io mi sono immaginato proprio come delle cicatrici, cioè delle parole che ti rimangono dentro, che non riescono più a uscire, che fanno parte di te. E quindi dai poeti che uno sceglie a una certa età, che non abbandona mai più poi, si forma poi la persona. E questa costruzione di tutti gli elementi di questo libro, questi per me devono raccontare una storia. Quindi se uno inizia a leggere il primo poeta non riesce a smettere, nel senso non sono poesie intere, sono piccoli pezzi di poesia, cioè un viso con delle parole sopra. Quindi non sono accanto, ma sono come dei tatuaggi del poeta, cioè fanno parte di lui. Il segno della parola è uguale al segno del disegno, il segno proprio grafico. Questa unione di tutte le parole da un poeta all'altro crea una storia. Questo era la. E molte volte questa unione è data dalla casualità pura, quindi è proprio un progetto alla Burroughs, quindi un taglia e cuci anche molto casuale a volte, di bellezze che si attaccano ma che non erano calcolate. Riguardo a questo, al segno grafico, eccetera, una domanda che a me era venuta in mente leggendo da farti era, sembra che la resa dei personaggi, il loro disegno, ma anche la resa grafica delle parole, la grafia che scegli, certi maiuscoli, la disposizione dei testi da una parte piuttosto che dall'altra rispetto alla figura che li dice o li ha scritti, abbiano un significato poetico in sé, a dire che questa opera sembra avere una componente ulteriore, non semplice trasposizione di una scelta da te fatta, ma nella resa del disegno, taluni caratterizzati in un modo, in copertina vediamo una spada, faccio per dire, sembra che o alcune parole che escono in maiuscole e così sembrano voler dire qualche cosa in più, insomma, cioè è così o. Sì, nel senso che comunque sono ritratti di poeti che ho fatto io. Sono parole delle poesie che io ho estrapolato da queste poesie, quindi le ho fatte mie in verità. Come sono disegnati questi personaggi è la mia visione di queste persone. Quello che ho disegnato, i pochi particolari che ho scelto, sono quelli che io credo importanti nei loro visi. Le loro storie e le loro personalità sono talmente forti che poi chiunque di voi ne magari ne conosce uno, ma quell'uno sa tutto di quella persona. Però può essere anche letto e vissuto da visivamente, letteralmente, da chi non sa niente di queste persone. L'importante è che quegli sguardi, quelle facce e quelle parole poi colpiscano e naturalmente scatenino all'interno una lotta, che è il progetto del libro, cioè la parola lotta è in copertina, infatti proprio perché è quella la cosa che deve scatenare il libro. Ma fra i tanti poeti, una mia impressione è stata quella su Pasolini. Mi sembra di aver visto che Pasolini avesse una ricercatezza speciale, forse per la quantità di dettagli che ho visto nella figura, ma soprattutto per il fatto che, a differenza degli altri, non sta citando un verso, una poesia, ma tiene in mano un'opera intera di cui si vede l'oggetto libro, insomma. Sì, quello è un ritratto un po' particolare, è un doppio ritratto, nel senso che è l'unico poeta del libro che non c'è scritto niente, ma ha in mano le ceneri di Gramsci, il libro proprio in mano. È una foto famosa di Pasolini, dove lui è vestito anche in maniera molto strana, perché sembra quasi che abbia una camicia messicana, non so come dire, molto variopinta, però ha uno sguardo particolare in quella foto che non è il solito sguardo penetrante di Pasolini, quello che ti perfora, diciamo. E quando gli togli anche la voce, si indebolisce ancora di più Pasolini, perché la voce di Pasolini è una cosa molto importante, forte. E lì è molto malinconico in quello sguardo, ha degli occhi dolci, molto come se stesse proprio tenendo in mano come dire, una foto di un familiare, come quelle foto delle persone a cui hanno in mano la foto di un fratello che è stato ucciso da qualche parte, che come un martire quasi, che ce l'hanno in mano. E questo libro interrompe la sequenza delle parole, ed era anche dato perché io ho fatto un libro su Pasolini, ci avevo lavorato talmente tanto dentro che non volevo più farlo parlare. E allora, per far parlare te invece che lui, come è stata la tua scoperta di Pasolini? Cioè, se prima ci ha parlato di Hikmet, da dove è arrivato questo interesse su lui e anche sugli altri personaggi, in realtà, al di là di questo libro, italiani, parlo Gramsci, Pertini, ora Berlinguer? Pasolini è una di quelle... questi libri qui, Gramsci, cioè sono una trilogia, sono Gramsci, Berlinguer, Pertini e Pasolini da solo, diciamo. I primi tre sono tutti libri che mi sono stati chiesti, nel senso la casa editrice mi ha chiesto: vuoi fare un libro su Gramsci, una cosa del genere, oppure vuoi fare un libro su Pasolini, e ogni tanto dico di sì, diciamo, perché lavorare su alcuni personaggi è molto affascinante, e poi soprattutto la maggior parte di questi personaggi non sono mai stati raccontati a fumetti, quindi sono novità assolute, nel senso non esiste un'altra biografia di Gramsci a fumetti o un'altra biografia di Berlinguer. Magari Berlinguer non mi era tanto simpatico, però comunque raccontare la sua vita era molto interessante. E Pasolini è l'ultimo che ho fatto di questa serie, che racconta però, ci era stato chiesto perché c'era l'anniversario della morte di Pasolini, non l'ho scritto io il libro, ma per il quarantennale della morte di Pasolini, ma noi abbiamo voluto raccontare il Pasolini bambino, adolescente, che si iscrive all'università, diciamo, il periodo pre-Pasolini, cioè quando Pasolini non era ancora Pasolini nel senso che tutti sappiamo. Questo perché volevamo fare un inno in verità alla vita di Pasolini, siamo stanchi di parlare dell'omicidio Pasolini, del delitto, vogliamo parlare dei contenuti di Pasolini, di quello che dice, di quello che era, e anche di quanto in verità era felice, di quanto viveva la vita, quanto gli piaceva la vita, lo sport, anche cose molto futili però molto belle. Mentre tiro il fiato prima dell'ultima domanda e poi allargare il discorso a chiunque voglia prendere parte, una domanda veloce sulla casa editrice, cioè in questo festival, in questa esperienza cerchiamo di dare voce e spazio a editoria indipendente, minore, a scelte coraggiose in questo senso. Sei stato tu prima che hai detto che qualunque altro editore o quasi non avrebbe pubblicato questo libro? Sì, questa casa editrice che si chiama NDA Press, non è una casa nuova come casa editrice in verità, ma è molto importante anche per posti come questo in verità, nel senso che una quindicina di anni fa l'NDA inventò le librerie Interno 4, che furono la prima catena di librerie di editoria indipendente, slegate dalla distribuzione ufficiale. NDA fa da distributore pagale, quindi arrivano spari e li pagavano all'NDA, che era una casa editrice che pubblicò tipo di libri naturalmente. Naturalmente la catena è morta, questo progetto utopistico, anche se molte di queste librerie sono rimaste, e tra cui una molto famosa a Bologna, per esempio, che è la Interno 4, InfoShop, ma ce ne sono tante altre per l'Italia, e ultimamente la casa editrice è rinata. Sentire l'idea che potesse mai pubblicare un libro del genere, potete sapere, è difficile, soprattutto attenta a un copyright dei poeti, nel senso delle traduzioni dei poeti. Quindi molti editori con cui lavoravo mi hanno detto che non se la sentivano di pubblicarlo, perché sarebbero dovuti ricorrere a tantissimi stratagemmi, oppure ritradurre tutti i poeti, tutte cose così. Lui, quando gli proposi la cosa, mi disse: lo pubblico io. Cioè, sul tuo sito sono vedetti dei tuoi rito, comunque a chi non ti conoscesse, per vedere che cosa pubblica. La storia a fumetti che hai pubblicato un anno fa è la storia di Alam al-Nasr, non so se lo sto pronunciando bene, che hai pubblicato per la rivista Pagina 99, giusto, un anno fa. È definita così su Wikipedia, per capirsi, la poetessa dello Stato Islamico, è tenuta in grandissimo conto dai jihadisti, continuamente e non solo, letta continuamente, e in quella storia a fumetti racconti di come i video dei gruppi jihadisti che recitano poesie poi siano frequenti, tanto quelli che siamo più abituati a vedere, tipo quelli di guerriglia o di esecuzioni. E di fronte a una domanda che viene fatta all'interno di quella storia, com'è possibile che una poetessa sia diventata così importante per l'organizzazione del terrore? Mi pare di capire che dai tre risposte, che fra l'altro provo a citare, la faccio un po' più lunga, che nella cultura araba l'autorevolezza della poesia è senza eguali, e qua mi viene in mente probabilmente allora anche più di quanto davvero ci immaginiamo e capiamo da qua, voglio dire dall'Occidente in senso, e che nel Medio Oriente la poesia è ovunque, e non solo nella lotta jihadista, ma insomma ben più diffusa che questo settore, che la poesia è concepita come un'arte sociale, e questa frase mi ha molto colpito, la scelta delle parole, e ultimo che di tutti i poeti jihadisti forse il più apprezzato è stato Osama Bin Laden. E niente, le domande sono tre come le considerazioni. Intanto perché questo è il clima e perché proprio forse la poesia svolge un ruolo? Insomma, e l'altra è quindi, e le altre arti, almeno nel mondo, diciamo, medio orientale, che tu da disegnatore, attivista, segui a lungo, com'è la situazione? E soprattutto, infine, in Europa, in Italia e qui da noi, come la vedi la situazione? È una domanda difficile. Allora, questa storia, prima di tutto la poesia nel Medio Oriente, ma anche nel Nord Africa, in molti paesi del Sud, diciamo, è molto più importante di quella che noi, come noi consideriamo la nostra. È molto più importante anche adesso, nel senso che tra le arti è la più importante, a livello sociale, come dicevamo. Nel Qatar, per esempio, c'è un programma in televisione, il più seguito, tipo Sanremo, però è di poesia. Il vincitore ogni anno vince una ricompensa che è maggiore di quella del premio Nobel, per far capire quanto è importante questa cosa della parola e della poesia. È in lingua araba il concorso? In lingua araba, sì. Per poesia araba. E la, naturalmente la, fare una storia su una poetessa che è la, detta la poetessa del terrore, non è una, è una di quelle cose, ed è una donna, è una di quelle cose che rompe lo stereotipo. Rompe lo stereotipo su quello, tutto, come tutto quello che riguarda il terrorismo. Prima è una donna, e questo un europeo non penserebbe mai che sta a fianco di uno dei capi dei combattenti dell'ISIS, cioè in primo piano. E poiché tutti leggono la loro poesia, e anche prima di farsi saltare per aria leggono la sua poesia. E che la parola sia proprio la, quella che ti motiva per farlo. Quindi naturalmente, se leggete la traduzione di queste poesie, non è che siano chissà cosa, no? Però hanno quelle cose che servono in quella lotta, che noi ripudiamo, però è pur sempre una loro ideologia. Quindi sono questi gli scalini, cioè rompere lo stereotipo che, prima di tutto, lì la poesia è importante, che non sono solo i buoni che usano la poesia, perché anche da noi non sono solo buoni poeti. Il poeta qui in copertina è forse il poeta più contraddittorio, è più scrittore che poeta, però può essere osannato da Casa Pound come da estrema sinistra. È un poeta, che uno scrittore che si è ucciso davanti a tutti, ha fatto harakiri davanti a tutti, e l'ha fatto perché voleva proteggere il suo paese, allo stesso tempo era contro lo statalismo, contro il nazionalismo, cioè è molto complicata. Comunque fa parte di un'altra cultura che noi non possiamo assolutamente capire, come quella dell'ISIS, quindi bisogna immergersi in quelle cose per capirle. Immergersi nell'ISIS, nel terrorismo, non è facile, però navigandoci dentro un po', vivendoci esternamente, studiandolo, capisci che fa parte della nostra situazione, che dobbiamo capirlo di più, e dobbiamo capire di più anche i terroristi, che cosa li porta a diventare così cattivi, così malefici, qual è il percorso che hanno fatto. Per esempio, io ho fatto un'altra storia per il Courier International sui fratelli Kouachi, che sono quelli che hanno fatto l'attentato di Charlie Hebdo, dove nella rivista francese mi hanno chiesto di raccontare la loro vita da quando sono nati a quando si sono fatti esplodere, senza giudicare mai quello che facevo. quindi hanno avuto una vita sfigata dall'inizio alla fine. Non li giustifica per quello che hanno fatto naturalmente, però è utile capire che cosa ha portato questo percorso e come la società parigina, francese, li ha costruiti dentro e motivati per diventare tutto ciò. Riguardo a questo, io ho avuto occasione di vederla a Urbino, dove appunto ci siamo conosciuti nella tua presentazione, questa storia. Parlavi anche di come prima che venisse pubblicata sono stati infiniti passaggi di controllo sulla realtà esatta biografica, e questo stesso testo scritto in italiano è stato pubblicato o innanzitutto subito dopo in Francia, giusto? E anche in questo passaggio c'è stato un qualche... Questo è il primo fumetto che è stato pubblicato da Internazionale nel sito web, non sulla carta, nel senso non quelle due paginette da turismo che fanno sulla rivista, cioè di gente che va in vacanza, ma la prima storia di vero giornalismo a fumetti. E, per la prima volta alla fine del fumetto c'erano 50 note, diciamo, che spiegavano esattamente i punti da cui veniva tutte le fonti che avevo usato. Dopodiché, quando il Courier l'ha pubblicata sul cartaceo, che è molto ancora più importante, ha fatto un'ulteriore mega verifica per non cadere in nessuna trappola che potesse essere un'accusa di dove l'avete presa sta cosa, cosa stai dicendo e via dicendo. Naturalmente questo ha fatto sì che io diventassi il disegnatore più odiato dalla Francia, nel senso che non è stata amata questa storia naturalmente, perché loro comunque erano stati colpiti dentro dall'attentato, quindi erano emotivamente poco pronti ad ascoltare qualcuno che li voleva giustififlessione, perché l'immagine dei Kouachi disegnata, della loro vita, delle loro mogli, dei loro amici, della gente che hanno fatto saltare per aria, crea una empatia con chi la legge molto maggiore di un articolo di un giornalista classico. E tutti giovani e belli devono essere. Ma invece forse è il nostro sguardo un po' privilegiato che ci fa guardare davvero soprattutto alla poesia, ma è comune l'arte, ora siamo nello Stato islamico in realtà, per ritornare a quello, è comune questo uso dell'arte o riguarda specificatamente la poesia? Riguarda solo la poesia, è l'unica arte accettata credo dallo Stato islamico. Se posso, ma secondo te perché? Perché si rifà le classiche costruzioni che si sono fatte sul Corano, si deve comportare, di cosa si deve leggere, cosa si deve guardare, delle loro interpretazioni fatte due secoli dopo, da quando è stato detto, qui sono versioni della loro idea, esagerata, il lato è l'unica poesia, il mondo da cui periodo, che non ha nulla a che fare con le cose della realtà comunque, nel senso non che non ne ha a che fare, ma che non è nulla di tangibile, raffinato. Loro, come dire, di noi, loro, ti va a credere, scaltro di quello che vogliono. Tavolo contemporaneo, alien. Se vuoi, senza doveri, siccome sei un appassionato di poesia, evidentemente, un lettore, eccetera, ti va di dirci te come la vedi messa? Cioè, come sta qua da noi invece in Italia la poesia? Io non sono uno studioso della poesia comunque, io approfondisco solo quello che disegno, cioè conosco solo quello che disegno. Okay. Conosco molti terroristi dell'ISIS perché li ho disegnati per 3 anni, e ero talmente entrato dentro che evitavo di andare in alcuni luoghi perché sospettavo che sarebbero esplosi da un momento all'altro, paranoia così, poi succedeva. Comunque ero dentro quella storia, sono dentro questi poeti perché li ho disegnati, ma non sono proprio un esperto. Devo dire che della poesia contemporanea italiana di questi anni conosco molto poco e soprattutto non li vedo mai, quindi non li leggo mai, non li leggo nei giornali, non li leggo. Sono censurati, cancellati dalla società italiana, quindi non vengono neanche loro stessi. Questo succede anche nel fumetto, nel senso il 95% dei fumettisti fa fumetto per il fumetto, arte per l'arte, nel senso fumetto per sé, arte individuale, parla di loro stessi. Poi ci sono anche altri che parlano di altro. Succede anche nell'area. Da fuori da quello dell'arte. L'esempio famoso è successo a lui quando ha fatto. Lui viene che il mondo della temporanea, questo perché lui non deve parlare della nostra società, lui deve parlare solo dell'arte per vendere arte. Questo è il discorso. E quindi forse la poesia vive la stessa cosa, non lo so. Devo dire che non le incontro, i poeti. Non mi si presentano, magari sono antipatico ai poeti. Non è... Ho qualche cosa da dire. Un attimo me lo prendo allora. Leggo una cosa dall'introduzione di questo libro, che è stata scritta da Lello Voce, immagino che in tanti lo conoscano e che non abbia bisogno di presentazioni, comunque fra i fondatori del gruppo 93, fra i promotori della Slam Poetry in Italia. Cioè, parlando di questo libro, leggo, dura molto poco. Un attimo. Si parla della forma materiale del supporto linguistico che ha un valore formale anche semantico pari ai contenuti veicolati, che stabilisce una forma dello scrivere e del lettering che è esteticamente decisiva e che influisce sul senso. Però, già che ci siamo, mi accorgo che è quello che ti ho chiesto prima, stavo proprio per chiederti la stessa cosa. Una forma dello scrivere e del lettering che è esteticamente decisiva e che influisce sul senso globale della comunicazione, che ricorda per l'appunto certe esperienze internazionali di poesia concreta e visiva. Qua accanto, nel senso in quest'altra stanza, per chi si volesse affacciare, sta avendo luogo una grande poesia da muro che fa parte del lettering, che usa il lettering come un'espressione artistica e che con certe esperienze di poesia visiva o tardo-novecentesche, insomma, molto a che spartire. E sembra, forse nella percezione comune, che la poesia abbia oggi da essere commissionata in qualche modo a qualche altra arte per avere una dignità, una rilevanza nell'oggi. Per esempio il disegno, per esempio il lettering, talvolta sono le musiche, talaltra delle fotografie, ma è come se non si potesse fare poesia in sé, che non significa poesia per la poesia, appunto, ma magari senza un corredo artistico altro da aggiungervi. È un po' passata l'era delle forme pure, o forse in realtà è qualche cosa d'altro, non so se... Sì, non so bene come rispondere. Comunque, okay. Io essendo principalmente un disegnatore, ma specialmente ancora un disegnatore di storia fumetti, la contaminazione fa parte della mia arte. Quindi non ci vedo nessuna... È come dire che uno che disegna non può mettere un racconto sopra un fumetto. Quindi penso che, anzi, l'unione delle arti, perché non siamo più le arti fiorentine, l'architettura, la scultura in classifica, sono mischiate adesso. È quello il loro forte. Quindi sono a favore che qua dietro scrivano una poesia in un muro, scrivendola in maniera esteticamente particolare, e giustificata alla poesia che stanno scrivendo, oppure semplicemente allora poteva dire la poesia è orale, quando l'hanno iniziata a scrivere l'hanno unita al disegno, cioè una concatenazione di arti che si uniscono un po' alla volta, ma che uno non distrugge l'altra, anzi l'aiuta, o ne crea delle nuove, diciamo di... quindi Lello Voce, che faceva le sfide tra poeti, la slam poetry, era sempre poesia, anche se aveva bisogno di questa coreografia quasi da boxer, di sfida rapper, di poesia. Non ci vedo niente di male, anzi, allarga, perché bisogna ricordare sempre che comunque noi abbiamo una visione di questi poeti mitologica, di Rimbaud, di William Blake, di chi volete, ma li leggevano in 10 persone quando uscivano i loro libri. Cioè i loro libri rimanevano in casa loro, non li leggeva quasi nessuno, li leggevano i loro amici poeti. Invece adesso, magari non conosciamo i poeti, non sappiamo, ma in tanti la leggiamo. E quindi anche leggerla nel muro, o leggerla in giro, è sempre un punto in più. Largo di nuovo l'invito, se qualcuno ha un intervento o qualcosa. Prova. Ah, intanto complimenti per il lavoro che fai, è stato veramente bello scoprire il tuo lavoro incontrandoci l'altra volta a Urbino e tutto il resto, e mi è venuto in mente, prima hai fatto un riferimento alla solitudine dell'attivismo, e ricordo che a Urbino tu avevi parlato di come è costruita la rete degli attivisti a livello europeo, a livello in realtà occidentale, si può dire. E niente, se ti va di parlarne, visto che potrebbe secondo me interessare molto. Sì, magari facciamo un preambolo di questa attività che porto avanti dal 2004. Io disegno tutti i giorni, dei disegni che non mi vengono commissionati da nessuno e che pubblico in rete. E, ho iniziato pre-social network, diciamo, con i blogger, con i siti web. Sono entrato nei social network, naturalmente con Twitter. Sono tornato nei blog adesso, perché penso che siano lo strumento migliore per comunicare queste cose, ma comunque ormai parliamo di migliaia di disegni che sono stati creati in questi anni. Questi disegni servono per aiutare le persone. Quindi mettiamo che c'è un caso particolare in Arabia Saudita, io aiuto le organizzazioni locali o le familiari con dei disegni che poi veicoliamo attraverso Twitter per sensibilizzare su quella problematica. Questo lo faccio per vari paesi dove ho più conoscenze, naturalmente, quindi Medio Oriente, Turchia, Stati Uniti, Cina e via dicendo. Cina un po' poco ancora, e via dicendo. Queste qui sono immagini che sono semplici, sono tipo questi qui dei poeti, raccontano o dicono poche parole, non sono satira, non fanno ridere per niente, anzi sono l'opposto della satira, e io sono l'unico italiano che fa questo tipo di attività, ma ce ne sono altri di Gianluca come me nel mondo che hanno altri nomi ma fanno la stessa cosa che faccio io. Quindi ci sono quello del Qatar, quello della Turchia, quello della Germania, quello del Brasile, via dicendo. La comunicazione funziona, noi ci conosciamo tutti tra di noi, funziona solitamente che ognuno parla del paese dell'altro, questo che intendevi tu, no? Che quindi io parlo della Turchia, quello del Qatar parla del Brasile, quello del Brasile parla dei palestinesi. Questo perché fare questo tipo di attività, di attivismo disegnato, è molto pericoloso. Diciamo che i disegnatori vengono considerati i numeri uno, i nemici numero uno del potere, dal Settecento in poi succede, e quindi sono i primi che vanno a casa a prendere, diciamo, quando succede qualcosa. In Turchia in questo periodo sono stati arrestati tanti miei colleghi, amici, sono in galera proprio perché prima pubblicavano su riviste e parlavano della Turchia, dei loro problematiche interne. Quindi adesso gira questo modo per proteggerci, tipo io che ho lavorato molto sulla Turchia, sono stato, denunciato dal governo turco, censurato, mi hanno chiuso il sito in Turchia, hanno fatto una richiesta formale il tribunale di Ankara per chiudere il mio profilo Twitter alla società di Twitter americana, che per fortuna quella non è stata accettata. Comunque se ero in Turchia ero in galera e non mi è più possibile andare in quel paese, naturalmente. Questo succede anche per un mio amico brasiliano che lavora solo su Israele, che Israele l'ha messo perfino nella lista dei famosi 10 più antisemiti del mondo. Cioè, mettiamo queste cose qui. È il terzo, primo Hitler, lui è il terzo. Spazio che se lui vivesse lì sarebbe un grande problema. E questa è la dinamica che si crea, quindi magari a volte uno dice parla di quello, parla dell'altro, aiuta questo. Quindi io lavoro molto sull'Arabia Saudita, Bahrain, un po' sulla Palestina, molto sull'Egitto, tutti gli ex, primavere arabe, diciamo zone di primavere arabe, e un po' nella Cina. Volete che vi faccia una domanda io? Quanti leggono libri di poesia qui dentro? Perché prima l'ha presentato? Dai, non male. Beh, però tanti, non male. Tanti. Solitamente ci vergognano ad alzare il braccio. Solo poeti morti? Ognuno ha la sua necrofilia. E invece c'è qualche cosa che noi avremmo dovuto chiedere a te e non abbiamo chiesto, ma che secondo te invece ci stava bene? Mi hanno già prenotato per tra 2 settimane ancora qui dentro, e quindi questo me l'hanno chiesto. Per dirla tutta sarei l'occupazione di Via del Leone. Ok, scusate, è un altro posto all'interno di Inchiostri Belli, un festival d'arte. Sì, io a questi luoghi mi piacerebbe, ogni volta che ci vado rompo sempre i coglioni a tutti, che c'è bisogno di ricreare un immaginario grafico e di disegno veramente di lotta e non un immaginario che si rifà ad altri mondi, alla pittura, al graffitismo estetico, ma a un disegnatori che lavorano, voi siete qui dentro, lavorate su questa città, disegnatori che lavorano qui dentro sui problemi di questa città, della vostra situazione, della vostra occupazione, dell'occupazione degli altri, della difesa dell'occupazione delle altre città che invece stanno cancellando, polverizzando, e quindi proprio un immaginario forte che lavori su questi contenuti, per me è importante. Questo è quello che chiedo alle persone che disegnano qui dentro. Ne abbiamo parlato anche lungamente ieri, fra l'altro, perché c'è stato dell'immaginario, quindi mi sembra più che opportuno, grazie, anzi. Sì? Ok. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, è il momento. Ringraziamo allora tanto Gianluca Costantini. Per chi volesse, Gianluca Costantini su Google e poi Le mille diramazioni, i libri Le cicatrici fra i miei denti e gli altri sono qui. Fra 10 minuti, sempre in questa stanza, inizia un tavolo sulle forme della poesia contemporanea con Ivan Tresoldi da Milano, Vincenzo Romania dall'Università di Padova, il Movimento per l'Emancipazione della Poesia, Simone Burratti e Jessica Mazzotti. Intanto grazie di nuovo a Gianluca e buon proseguimento col festival.